però, e l'altro secondo me dico è lo stesso, così come cosa di Nafuti, capito? Tanto lo, a parte di io di Valano, ma non ne ho mai avuto e mai usato, capito? Sicché e allora io non ne ho mai comprato, mai. Già lì. Allora, radio, ma ti piace? Stavo rispondendo a Luca che era in BMF. E che bello. A Puglia. La pioggia calmò. Cattemare di più basso con questa radio. Se invece starà a la Svizzera, a forte a non usarla, viene l'Abre, adorra. Noi faccio la taratura uguale a quella del 440, perché quella è precisa, perfetta. E chi è? Tu mi devi accettare il cattivere 275 H acceso sull'R2 Alfa, c'è. Che fa sempre? Adesso sempre. Sempre con gli stessi watt. Sì, vabbè, qualche puntino in meno arriva, ma non fa niente, non la poco, lo lascia stare così, si abbia il culo. Bah, infatti. Eglia. Ma Luca non può passare perché è 27 adesso. Non so, aspetta che glielo chiedo. Tu non mi rispondi. Sta sgusciando le lumache. Ehi, ha detto che ne da una mossa, aumenta di raddo. Sicuramente, chissà. Non la gioca, chissà cosa ha toccato. Ha toccato la gente, non la gioca. Dove? Ascolta, il segnale com'è, buono? Il segnale è sempre lo stesso, sì. Quindi positivo, tranquillo, va bene. Sì, la radio va bene sempre quella, MC60, però non la stavo usando. Dai, che è un'ultima radio quella. Sì, è un'ultima radio, ti ascolto, poi ho messo la tua parlante esterno, il PSLSP430, cioè, capito? L'armadio, ci mancano le metatore PS50, ma non ci sta tutta la linea completa sotto, capito? Poi ci sono le altre radio, non fa un casino. Tu metti in vendita. No, prendo la linea o la linea completa la 430, vuoi di là, non vuoi di là, ma stai scherzando, no, poi mi serve, sono nuovo con la metatore. L'ho fatto riparare, va bene così, stavo, era sempre dentro l'armadio ed era una stronzata, un transistor era scoppiato, quindi mi dava 22 volt, mi dava, anziché 13,8. Se non te l'ha bruciata la radio, col fusibile? No, me ne sono accorto in tempo, sì, mi ha bruciato il fusibile, era collegato al 430. E come è acceso l'alimentatore si è spenta anche la radio, capito? Meno male c'è il cavo quello suo, piatto, turbo originale, quindi ha bruciato i fusibili, tutti e due, perché ne ha due, uno è positivo e uno è negativo, li ha bruciati tutti e due, meno male. Ha finito le successi, no? Sono come diceva la tensione, 22 volte sta parlando. Capita. Praticamente una specie di stabilizzatore si è rotto, dai. Sì, proprio lì, bravo, proprio lì, sì. Dove c'è lo stabilizzatore di tensione, entrava proprio la diretta, 22 volts. Capita. Sono belli, belli, esteticamente non sono niente come alimentatori, però fanno linea, così che, certo, con quelli che fanno oggi, con gli strumenti belli e tutto quanto, quello sì, però prima rivolgendo così, non ci sarebbe meno male due strumentini lì, no, di quelli magari analogici, giusto per tenere in tema l'età dell'alimentatore. No, un'altra vettura, ma mi sa posto, mi sta chiamando mia moglie. Che mi sento anch'io un po'. Ehi, qua sogno. cattivo, non sono io. C'è l'ascolto, Claudio. Luca, 23, c'è il Peppino, io c'è sempre il PMR, no? Quando io sono lì, alla fine siamo sempre lì e non dobbiamo fare il gabbione su. Bene, mi ascolti, Tino, con 43. Sì. Dai, buonasera a tutti. Ciao Antonio. Sì, buonasera, buonasera a tutti, dai, a tutti in generale, non so chi ci sia. Per il momento siamo io e Tino, poi però si che interrompe. Fa salutoni Tino, muscolo. Ciao Antonio, ciao. Caffa. Come mi ascolti nelle tue coordinate? Fortissimo, fortissimo, buono, buono. Fai un passaggio a vedere. Perché adesso io non sono più a latte dolce, mi. Già me sono accorto, infatti sei un po' basso di segnale, però già va bene, ti ascolto, sei Santiago 8, Radio 5. Gappa. Tu già sei 9.20, qualcosa del genere. Ma devo alzarla questa antenna, perché non mi sta dando soddisfazione. Devo alzarla un po' di più, devo alzarla. Quindi via. Devo alzarla. Perché mi sono accorto, magari io ascolto e ascolto bene, non ho problemi. Però devo salire l'antenna. Non so. Purtroppo, quando è bassa, fa questi scherzi. Vabbè, però un'antenna da 3 metri, la boomerang, quella grande. Ah, sì. Cappa. Avanti, Claudio! Ehi, va bene. No, io sto andando con la 430 perché è una vita che non lo so. E poi ancora aumento la cacciata del PMR. Vediamoci il studio, perché si sente un bel acetiti. Mazza che ti ne varia, 9 più 30 sei in occhi. Sì, c'è. Anche quella si mette in moto quando lo parli. Dopo fa un po' senza spegnersi. Sì, poi agisce un po' e poi si stacca. Tieni qua la manata dell'aria. Ehi, sì, anche tu, sei 9.10 pieno. Iniziato a 106, 109, oggi 9.10, troppo così 9.30, bombi. Ho montato la cosa, la boomerang, quella che la, non quella piccola. Arrivi bene alla grande. Avanti Luca, qui sei. E intanto qua Luca non passa il PMR. Devo fare un disco portatile, Edo, FND gioco e tutti. Io ce l'ho il monitor, se mi chiama qualcuno rispondo, se no ti mando qua, non puoi fare tira e molla. Vai ti. Sono sapita, Bruno. Tu già sei da rivendere poco forse, ya. Minchia. Questo è il radio che abbiamo oggi che regge la notte. Se vuoi abbassiamo, non è che... Aspetta che abbasso qua, se no... Pure che c'è antenna che ha giù montato, ho notato che i segnali sono molto più alti, sono. Cioè, tu Claudio mi stai arrivando a 9 più 30. E Radio 5, qua, se vuoi ti faccio la foto, non ne ho problemi. Ma già lo so, ehi, ciao, questa radio non c'è bisogno di toccarlo, un po' come niente. Qui si è fatto una pulitina che era pregata un po' bello bignoso, l'ho cominciato a parte. Però è piace che la uso perché sennò è un casino. Tutti, 450 cosa? Sì, però adesso ho cambiato, eh. Antu, questa come va? Guarda un pochino come la modulazione si è cambiato, sei più bassa. C'è una bomba in occhi. Questa è l'altra, Claudio. L'altro 555. Bene, esce. Se non me lo dici, se non stai attento, guarda l'altra. L'altra c'ha più acuti. Questa c'ha più la tonalità medio-bassa, però è un bel forte lo stesso. Guarda se è cambiato. Niente. Però sta chiamando a Luca nell'altra radio. Cazzo, di gira mi arrivi quanto è Claudio, mi arrivi. cazzo, siete fortissimi siete. Beh, tanto io sono più vicino a quello di Tino, eh. Io sono più vicino a te. Forse non lo so, però Tino qua è molto forte. Va bene, quasi 30. Tino, mi senti? Certo. Guarda un po', ti ho stato l'aria a 3, 1, 2, 3, prova. Sei 9.15, buono. E ho cambiato l'antenna. Va bene, anche qua arrivi Lu. Voglio, qua arrivi a bomba, arrivi. Mi senti Antu? Ma c'ho stato l'aria a 3. Devi regolarla, devi tagliare il capo sicuramente, la devi fare giusto. E cosa taglio il capo Antu? C'ho stato l'aria? 2.5, quasi 3. Allora c'è qualcosa che non va. È un'antenna che non serve, non servono quelle antenne. Non lo stai dicendo un cazzo, perché sicuramente però c'hai di fronte, non è possibile. Ascolta, la do a te la stessa cosa, vuoi scommettere, io? No, c'è da a me, io la piazza e non ho problemi. Io la scommessa, dai, se perdo io pago a bere questi che ci sono qua. Pago a bere io, se no perdi tu paghi a bere tu. Però ce lo devi dimostrare che non mi da stazionare, ci stai? Certo che te lo dimostro. Cazzo, c'è quell'albero di merda, c'hai, dove l'hai messa tu l'antenna? Non c'entra niente, diglielo tu, Lu. Io sono pronto, è un po' di salume, però ci vuole anche. Aiù, voglio la cucina, guardare l'aino. Aiù. State che usa che sono i miei. Uno e uno mi dava. Ce l'avevo io, uno e uno. Aspetta un attimo, eh. Aspetta, affanculo, non mi viene male. Mi piace di bullare tutti, vabbè. Allora, quando numero la fiscale scende a negativo. Luca è in positivo, Luca. Allora, il capo qua è Anto, 8.48 m, come c'è scritto nel foglio, cosa che mi hai mandato tu? Non ti ho detto 48, ti ho detto 46. No, 8.48 m, guarda bene. Io non me lo ricordo adesso. Non lo so, non lo so. Non me lo ricordo adesso. Quasi che sia così. Però io l'ho fatto 4.46 m, cioè 5.46 m il mio. Non lo so, Lu. Vuol dire che c'è qualcosa che non va, c'è. Ho quel cazzo di pianta che sta girando i coglioni. Comunque qua arrivi forte. Ma se non faccio 5.46 m non ci arriva, capito? Arriva giusto. Lo so. Però è così. Cioè dovrei levarne praticamente 2 m e 2 cm per farlo 5.40 m, no, 3 m e 2 cm. Impossibile. Se lo faccio così non ci arriva più. Allora devi fare più lungo. Picca, 12.34 m, no, ci arriva giusto, ci arriva anche, ce n'è anche in più. Cosa si intende? Devi fare 8 metri a qualcosa. Boh, secondo me, non lo so, è un'antenna che non sono fatte bene, dai. No, vabbè, niente, non è che posso pretendere, ma adesso mi compro una boomerang. Ciappa, ma se io ti faccio vedere... Io pongo un pane. Cavo, fa 1 e 1 di stazione. Ecco, da regali dai, non è affettato, ci siamo scelti. Regali dai, ma ricca. No, Antu, ma cosa ti posso fare? Non mi segnalo, c'ho un rosso, metto anche... dico non professionale, però è buono. Aspetta, mando la foto, ti mando il video, aspetta. Già ci credo, ma sicuramente hai sbagliato le misure. Tino! Qual è la stazionaria? Qua. Allora la palla scende a 2. Sotto 2.5. No, canale 23. Non ho sbagliato le misure comunque. Le misure non le ho sbagliate assolutamente. 8.48 m. Allora quel cazzo di pianta che sta girando i coglioni, perché se io la monto qua stazionaria, qua comunque sei forte. Ho capito, tanto sono forte quanto voi, ma c'ho lo scippatore bollente. Quindi non è stata andata la conscia, mi sa appena andata la buccia. È nata la ricorda di Luca giù buccia. Io ascolto il video, ancora sta caricando, non c'è la connessione lenta. Tino! Teia! Tu tu cosa porti? La birra. Boh, siamo a posto. Claudio, vabbè, ha detto che era affettato. Cazzo, dalla carrinaia, dai, non si se mi c'era affettata, va, boh, boh. Ma perché non è che il carrinaio, ho buon idea, ho buon affettato con le focaccine. Io porto la birra. Allora, Luca porta l'antenna. Antonio, se perde, aiuti, ci dimmo, però. Io dico la pittella. E la casarella. Io porto un bacioccio. Malato, cazzo. Via. Ah, sì, dai, aspetta. Ma io ce non andrò in forno. Non fala. E cos'è? Un cane del forno questo. Se parlo per le negativo scendo a 10, se no sono 12 in faccia. Questo è il canale dei vivi, non dei morti. Forse è riuscito ad arrivare il primo video, eh? Adesso manderà l'altro se tutto va bene. Girati a casa perché la connessione è ben lenta. E vabbè, quando hai fatto lo domandi. Buonasera a tutti comunque. Ciao Gianni. Buonasera Gianni. Salute, buonasera. Ah, dite esatto, non ridere, devo lasciare di tu qualche cosa di bucaccione, che me lo sto immaginando. Antonio è vivo, i vivi ce lo ridono sempre. Arrivo a tutti. Un casino sto cazzo di cosa. Però sei a rosso, Cosa è lui? È vero, claro, non superare la LC. Allora, l'importante è non superare la LC, per il resto si può dire tutto. Cos'hai detto tu? Cazzo ti sei abbracciato mentre la gioca. Mi senti? Basso basso ti sento adesso, prima arrivavi Santiago Nord. Perché tu ti sei abbassato? C'è l'antenna. Allora, c'è la brittella. Sei Santiago 3 tu adesso. Vai tu. Sto dicendo, sei sparito. Cazzo, con me le mie altre cose, Rubu. Qua sei sempre uguale, da me, vabbè, siamo vicini. La Rubiella è fatto bella, Ehi, ha voglia, l'ho controllato col test, è perfetto. Tino! Tino! Aspetta che l'attacco diretto, aspetta. No, l'attaccare diretto che ti dà la stessa cosa, che quel rosmetro è nuovo, la gascia, se sta scaldando il dissipatore vuol dire c'è stazionare. Tino! Eia! Da bene, allora, cosa ci abbiamo? Da! Da bere! Ancora! Mamma mia, che... Che ti ha commessa? Dove la organizziamo? Dove organizzare? Io sto organizzando un barbecue, ma in quella zona io non tutti possono entrare. Ma è un casotto, Vabbè, se mettiamo a posto a campagna mia, si può organizzare lì, Tu sei un antichissimo che mi aveva preso a lavorare, ma io proprio tanti anni fa, quando ero un ragazzino, giovincello, a raccogliere olive, però prima di trovare una falcetta, cioè me non sono acqua, no. Ah, perché? Perché parli così, scusa? Ma che si lasciano fuori, no? Entriamo a piedi. Vabbè, con la tua possiamo entrare tranquillamente, Vitti. Bianco per me, dai! Ascolta, cosa facciamo? Siccome siamo in molti, perché se consideri Antonio, Claudio, Luca, io, non ci siamo. Attacchiamo il carrello, arriviamo al cancello, lì si caricano tutti sul carrello e entriamo così. Bianco per me! Guarda un po' se ha cambiato qualcosa, Cla. Sì, adesso vedi come prima. L'ho messa diretta l'antenna. Adesso sei più basso però me, Hai visto? Se lo devo comprendere, no? Adesso è 9 pieno, prima era 9.15. Vabbè, anche tu sei oltre il 9, Vabbè, Luca, fondo scala. Claudio, Santiago 5. Anche da me sei fondo scala, Luca, perché siamo vicini. Ma te l'ho detto cos'è quell'antenna lì. Non sto dicendo niente, ci mancherebbe. La piazzata è purtroppo mi dà questo qua. Mi dà questo problema qua. Non è il rosmetro, perché il rosmetro è il nuovo in scatola. Ma infatti, il nome del rosmetro non devi dubitare per niente. E poi è uno buono anche quello. Ah, ti mando il video, aspetta. Ma non gliela puoi fare con quel verticale che ho fatto io. No, Cla, ho deciso, mi compro la boomerang, quella grande. Se la compro a 3 euro, l'ho detto che è ultima. Cazzo, tu mi arrivano ben 10 qua. Oh, io c'è una che è massa da vendere, se la vuole qualcuno. Vabbè, però, sai com'è. Sai com'è? Ah, non le uso le matte, le uso le matte. Che ha bucato la testa, la testa, la può vaginare, c'è antenna. Tu pure un sai. Vabbè, chi la vuole è qua. Non te ne la giardino, quella la mettere su un palo a 2 metri, vanno benissimo per carità, ma non è antenna la mettere qua. Andrete mai bucato un burro a 510, sono rinato. Lascia perdere, va bene così, alla grande, non la voglio lasciare antenne, va bene così. E voi 50 euro. Che cosa? Ah Luca, parla la Game Master. Faccio un'offesa, Cla. Non rispondo neanche a queste offese, Cla. Ma sto qua sul tetto, io, guarda 50 euro. Quella viene bella, quella là è... Mi viene il cavolo da me la mano quando è una mattina, una bella giornata, quindi lui mi dà una mano lui. Intanto lui sa come si piazza, l'ha già piazzata. Infatti io non l'ho già piazzata. Avevo un diploma per piazzare la Game Master. Vai, Cla. Quanti quant'era non mi puoi dare, mi dai? La metà di accrocelli. Sei stata Carillucci. 100 euro meno non la do. Ma meno non la do. Ah, mi compro la boomerang, la mini boomerang. C'è la mini, l'altra, quella più grande. Ma detto che va benissimo Antonio con l'antenna. L'ha provata, lui è perfetta. Un bombo. Una e due stazionarie. Tu l'hai comprata domani. Ci vediamo, me la prendo. Ma non è piatto quello di quell'antenna, ma intanto solo ci spetta. È proprio altro, non fa. Ci vuole un'antenna robusta qua, tipo manto, va bu, e basta. Un piatto di antenna. Era 510, cosa è successo? Ma tu te ne sei accorto? Fretti, perché quello è il piega all'interno. È permanente all'interno, hai visto? Si è rotto lo stub interno in rame, perché così troppo piegano troppo quelle antenne, soprattutto quando sono così in alto, è un casino. Fino a quando la tieni bassa, 2-3 metri, va bene, ma lo sono vendendo i 42 metri, non fa, se non provi a comprare. Okay. È per quello Luca che ha avvitato il PL in un video a 1,80 m, per non spezzarla. Va bene, io ti sto dicendo che lavoro l'abbiamo fatto, sono rinato, grande pulizia sul tetto, tutto a posto, io non c'è nessun problema, tutto è sufficiente quello che ho, lo sai, con tutti gli antenni a 16 metri a favore. Arrivederci dalla 131 e non si viene a nulla. Pino. Sì, stavo aspettandomi il cambio del mic perché mi devo ascoltare la radio, quindi rilancio a chi vuole entrare, non ho subito la ruota, quindi non so, sono un po' assente, devo andare via dalla postazione. Va bene, allora buon fine postazione, ci sentiamo dopo. Sì, già, va dopo, Io mi dico, sono 7:20, apri 10 minuti e poi inizio a prepararmi, che lo sta piovendo, e così va a portare il cagnone. No, ma chi c'è? Sempre bicicletta, in qualsiasi posto che vado mi segue, ma Marina non ci vuole stare. E come mai? Allora, abituato a te col cane, KK. Sì, ya. Dai, adesso appena mi fanno guardare in carica di 35 euro me la ordino con l'antenna, no? Mi piazzo quella, provo quella, se mi fa lo stesso problema non mi piazzo più, cacudute e mi mettevo solo il PMR. Tu, se ti fa problema vuol dire che c'è una fase di riflesso per dire, capito? Allora ragione Antonio, vuol dire che quell'albero o qualcosa ti sta dando fastidio. Gappa, vabbè, la pazienza, che non si può fare nulla. No, l'unica cosa da fare è montarla come cristiani e metterla sopra il tetto. Allora, va bene. Era stata già fatta, Cla. Cosa? Era stata già fatta da quando gliel'ho detto, da quando gliel'ho fatta l'antenna, a Chiedrusa. Capito? Sicché se poi le sue decisioni, oggi sono, domani montiamo e domani sono, non ne monto più, è un altro discorso. sai cos'è con l'antenna radio, sai cos'è, non è che non la voglio fare, il discorso è che purtroppo che devi salire su e montare lassù, un domani che la devi le fare via, io mi taglio una partita e lì su buco blu, un domani fai a caso la devo tagliare e buttarla via, però non la puoi più smontare. Ho capito, ma se vuoi vedere un domani, se tu ti pensi ma un domani blu, allora non lo so. Claro, dimmi tu se so sbagliato, tu dici un domani c'è da togliere, qua pongo una boomerang che non li sbaglio, tanto si fa figheggia, poi la cosa non è molto visibile, una boomerang sul piazzo, perché è semplice, la piazza mi ha comprato solo il capo e basta, perché quello che c'ho a casa invece non mi basta, devo controllare, ci lavorano se o no forse una trentina di metri, dal tetto a qua. Siamo domani, piazza va e buco a voi, quando sarà ci pensiamo, magari si può togliere anche intera e portare via, si può anche portare via così com'è, capito? Vediamo un po'. Vabbè, per lui è semplice, capito, perché lui c'ha il terrazzo, vuole smonta, fa quando vuole. Non è che posso tagliare in attacca a Bissuria, lui lo può fare perché se lo può permettere, come te lo puoi permettere tu, salire quando vuoi, ma non è così, a me è una piccola e boom, ho deciso, mi compro questa boom e anche basta, questa boom, quella, non so, la controlli, vedi tu se puoi fare, ti fa un'antenna per te, boom. No, quelle antenne lì sono un casino con il capo, perché anche il capo irradia. È per quello, capito? È per quello. Qua 1.0, 1.1, da poi la buona chili e ti date 2 mesi. Boh, un mistero. Boh. Oh, claro, non lo so, io gli ho detto a Luca, dimmelo quando la vuoi piazzare, io te la preparo, gliel'avevo già fatta perché lui mi aveva confermato tutto quanto, pronto al montaggio sul tetto. Poi, non lo so. L'antenna era pronta però. D'accordo, ora lo puoi pensare un attimo, se l'antenna è pronta, se passi che te l'hai già venduta, santo, non vedrai ancora, no? Come tante altre le ho vendute lui. Però ti ho fatto l'antenna a te e ti ho detto l'antenna è pronta. Cosa ti ho detto però? Ti devi comprare questo materiale qua. Cioè, se vuoi che devo comprare anche il materiale io, ma tu mi hai detto, ho parlato con quello di su e tutto a posto, possiamo, ok, andiamo a vedere, ti ho detto, andiamo a vedere com'è su, organizziamo le staffe, organizziamo il tutto, i tasselli, l'antenna è pronta e basta, non c'è da fare niente di che. Poi se l'antenna un domani dovesse rimanere lì e morire lì, è un altro discorso, ma un domani, cioè ti sei accoglio a lui, se mi insegni a tutti gli pro e contro, dimmi se sto sbagliando. Andiamo bene, avevo anche abbassato l'era, fate una cosa, ascoltiamoci al canale 20, dai, andiamo al canale 20, così lasciamo libero tutti e